carne alla griglia, bacon croccante, salse a volontà. Fame di Burger King? Corri al King Drive e ordina i tuoi menù preferiti in tutta sicurezza e senza scendere dall'auto. Burger King, a modo tuo. Ave Maria a tutti, ragazzi e ragazze carissimi. Di nuovo benvenuti a questa nuova puntata della trasmissione Spazio Giovane, programma di Radio Buon Consiglio, a voi in particolare dedicato. Vi saluta di cuore Don Leonardo Maria Pompei, che come ricorderete in questo periodo sta affrontando con voi in occasione dell'anno della fede. Questo è stato ciò che mi ha spinto a scegliere questo tema, la tematica dei 10 comandamenti. Ecco, proprio ieri mattina leggevo sul breviario antico che io recito come ufficio divino un brano del profeta Osea, che ho anche postato poi su Facebook, che diceva queste testuali parole: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E domenica scorsa, anche in un intervento ufficiale durante la pubblica predicazione nell'omelia, ho avuto modo di dire che la conoscenza è la prima cosa assolutamente necessaria per vivere da figli di Dio, perché se non siamo formati non possiamo sapere nulla, e in modo particolare non sappiamo regolare i nostri atti in vista del bene. Ecco, io ritengo e penso che già nelle puntate che abbiamo affrontato, ho dei riscontri chiaramente su questo, per qualcuno di voi c'è stata qualche novità, nel senso che la mia esperienza di sacerdote in cura d'anima, non sono proprio vecchissimo, non sono più neanche giovanissimo, anche se cerco di vivere in maniera abbastanza intensa il ministero, mi insegna che tantissimi peccati si fanno in uno stato di pressoché totale ignoranza. Ecco, e i peccati contro il primo comandamento generalmente sono completamente ignorati. Adesso, dopo questi primi incontri, penso che ci siamo un pochino cominciati ad orizzontare, quindi vi ricordo che abbiamo visto in queste prime puntate i peccati che riguardano fondamentalmente le offese che possiamo rendere a Dio nel culto che gli è dovuto. Ecco, quindi l'uso sacrilego dei sacramenti, nelle puntate precedenti, e la volta scorsa abbiamo visto i peccati gravi di irriverenza, oppure di negare a Dio quei gesti sacrificali che gli sono dovuti come culto, come ossequio e come sacrificio. Mi ricordo, insomma, abbiamo il digiuno, l'astinenza, le cose che abbiamo visto nella puntata precedente. Ecco, ci restano ancora diverse conversazioni, adesso non so se ci terranno quattro incontri, però diciamo che il capitolo primo comandamento, diciamo che è composto ancora di altre quattro sezioni. Una la cominciamo oggi, che sono i cosiddetti peccati classici contro il primo comandamento, quindi quelli proprio direttamente e formalmente contrari al primo, che vi ricordo, dici: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me, quindi non rendere culto a nessun altro fuorché a me stesso, meno che mai, ed è la tematica che vedremo oggi, al nemico di Dio, all'avversario di Dio, che sarebbe il demonio. E quindi chiaramente vedremo che non c'è soltanto il satanismo, che grazie a Dio spero che non sia così tanto diffuso, ma ci sono anche tutta quanta una serie di peccatacci brutti, e vi assicuro, diffusi non poco. Io ho già avuto modo di intercettarli e di provare qualcuno a dissuaderne, ma non c'è stato verso, e come vedremo sono peccati gravissimi. Ecco, e poi ci aspetta, diciamo, dopo questa conversazione, non lo so, vi ripeto, se riusciremo a esaurire tutto quanto il tema e magari a cominciare ad aprire quell'altro, e ci aspettano altre conversazioni che riguardano i peccati formalmente diretti contro le tre virtù teologali, che sono sempre, come vedremo, direttamente contrari alla materia del primo comandamento. Quindi vedremo alla fine quanta carne al fuoco avremo messo soltanto con il primo comandamento, che è, vi ricordo, il più importante di tutti, Non pensiamo che il comandamento più importante di tutti sia il quinto o il settimo. Mi ricordo le prime: io non uccido e non rubo, ammesso poi che sia vero, come vedremo a suo tempo. Ecco, quindi qui sono i peccati più gravi in assoluto. Ora, oggi affronteremo il tema dell'occultismo, della magia e del satanismo. C'è stata da poco la festa di Halloween, la festa, la pseudo festa balorda di Halloween, che mi ha visto mio malgrado nell'occhio del ciclone. Ecco, ancora adesso se andate in giro, insomma, online e non online, ho scatenato un polverone quest'anno come mai era successo negli anni precedenti. Buon segno questo qui, perché si vede che ho fatto arrabbiare un po' al nostro avversario concorrente. Quindi ecco. La cito, insomma, perché rientra, ecco, tra i peccati diretti contro il primo comandamento. Ora, che cos'è l'occultismo? L'occultismo è una macro categoria, è un macro genere che poi abbraccia dentro di sé tutta quanta una serie di specie che adesso oggi andremo a conoscere. Si tratta tutti di peccati molto gravi, perché o direttamente oppure indirettamente, non soltanto si nega a Dio il culto che gli è dovuto, ma lo si offre addirittura ai suoi nemici, cioè i nemici di Dio e i nemici nostri dell'umana salvezza, cioè i demoni che ci odiano e non vogliono altro che il nostro male. Perché si chiama occultismo? Voi sapete, ragazzi, che quando una cosa ci è ignota, si dice, si usa anche nel linguaggio, no? Quella persona mi ha occultato la conoscenza di quella verità, cioè me l'ha negata, quindi mi ha impedito di conoscere qualcosa. Ora, l'occultismo non è altro che il tentativo da parte dell'uomo di togliere alcune barriere e alcuni limiti che Dio gli ha imposto. Quali sono? Uno, l'entrare in contatto con ciò che è soprannaturale, i morti o il mondo dell'aldilà. Secondo, la conoscenza del futuro, che non ci è dato sapere. Terzo, l'ottenere attraverso mezzi soprannaturali, chiamiamoli così, dei benefici di qualunque tipo. Ora, state attenti, tenete presente che esattamente queste tre cose, ve le ripeto, contatto con il mondo del soprannaturale, col mondo dell'aldilà, col mondo dei morti, eccetera, conoscenza del futuro e ottenere benefici attraverso mezzi soprannaturali hanno, come dire, la versione al positivo, cioè a volte sono doni che Dio fa, perché ci sono santi che hanno fatto miracoli, quindi che hanno ottenuto benefici attraverso il ricorso a mezzi soprannaturali. Ci sono santi e sante e anche mistici e mistiche che sono entrati in contatto con il mondo dell'aldilà. Abbiamo due casi recentissimi di mistiche che sembrano attendibili. Io personalmente do loro un certo credito, fino a prova contraria, che sono l'austriaca Maria Simma, morta nel 2004, e l'italiana Natuzza Evora, scomparsa nel giorno di tutti i santi del 2010. Quindi loro, per chi le conosce, entravano in contatto, vedevano gli angeli, parlavano con gli angeli e vedevano le anime del purgatorio. E ci sono sempre stati, nel corso della storia della Chiesa, i profeti in senso stretto, cioè coloro che hanno predetto il futuro. Tanto per fare un esempio noto, Padre Pio, penso che tutti sappiano, questo si vede anche nel film, nella fiction che hanno fatto con Sergio Castellitto, quando conobbe il giovane sacerdote Karol Wojtyła, disse candidamente: quel prete diventerà papa. Quindi, evento allora assolutamente ignoto a tutti, anche al diretto interessato, ma che per rivelazione di Dio Padre Pio aveva potuto conoscere. Ora, qual è però la fondamentale differenza tra questi episodi, diciamo al positivo, che io vi ho elencato, e i peccati di cui andremo a parlare oggi? La cosa è molto semplice. Queste tre dimensioni, quindi ciò che c'è nell'aldilà, ciò che riguarda il futuro e ottenere delle cose positive per noi, come dire, alterando in qualche modo le ordinarie leggi della natura, sono prerogative divine, perché è Dio che conosce il suo mondo, che è il soprannaturale, è Dio che nella sua onniscienza conosce il futuro, ed è Dio che, avendo stabilito le leggi naturali, ordinarie, può tranquillamente bypassarle, farne a meno per ottenere effetti straordinari. D'accordo? Quindi, quando Dio decide che queste cose debbano in qualche modo essere comunicate all'uomo, lo decide lui e le dona liberamente e gratuitamente a coloro che lui sceglie e designa per queste cose, senza nessun loro merito, senza nessun loro diritto. Dobbiamo dire che ordinariamente fa questi doni a persone che hanno una vita, non dico santa da immediata canonizzazione, però sicuramente una vita cristiana irreprensibile e esemplare. Non sono conosciuti, almeno io non conosco, poi se qualche ascoltatore o anche qualche suora della redazione o qualche santo frate mi sa dare un esempio diverso, insomma io non conosco. A mia memoria, casi dove doni di questo genere sono stati fatti a persone indegne, mai sentito, d'accordo? Invece, nell'occultismo c'è il contrario, cioè è l'uomo che nella sua superbia e nella sua volontà disordinata di sapere o di avere ciò che non si può e ciò che non si deve, fa pressione. Usa strumenti per rompere queste barriere. Ed inevitabilmente, facendo questo, diventa simile al demonio, perché il peccato del demonio, a prescindere da tutti, perché il demonio si è ribellato? Perché il demonio vuole essere come Dio, fondamentalmente. Non accetta di stare sottomesso a lui, non accetta la sua realtà creaturale, per quanto molto molto potente, molto grande, perché i demoni comunque appartengono alle nature spirituali angeliche, quindi hanno delle intelligenze molto superiori, ma sono comunque delle creature. Lui vorrebbe essere uguale a Dio, quindi avere tutte quante le prerogative di Dio, usurpandole, prendendosele. Questo Dio non lo vuole e non lo permette. Quindi, quando l'uomo, però il demonio, nonostante che Dio non lo voglia, non lo permetta, fa la scimmia. Quindi, siccome lui vuole essere uguale a Dio, simula in qualche modo tutte le prerogative divine. Il demonio non fa miracoli in senso stretto, ma fa comunque delle cose strane. Pensate, per esempio, al caso indubbio di quell'indemoniato morto qualche tempo fa, che era Sai Baba. Sai Baba faceva apparentemente, attenzione ragazzi, dei miracoli. Sembrava che si creasse la polverina bianca dalle sue mani, faceva sparire le cose. E non è che era un mago o un illusionista. Alcuni maghi, uno va da qualcuno di questi, leggono le carte, adesso lo vedremo queste cose, e ci colgono con alcune cose riguardo il futuro. Come mai? Alcuni mezzi di contatto con i morti sembra, ripeto, sembra che mettano realmente in contatto con i morti. Come mai? Ecco, come mai è molto semplice, perché il demonio è molto intelligente, quindi, numero uno, lui non conosce infallibilmente il futuro, solo Dio conosce il futuro, però è sufficientemente intelligente per prevedere molte cose, almeno in senso generico. Noi dobbiamo pensare che stiamo dinanzi ad un'intelligenza sommamente superiore a quella dell'uomo. San Tommaso d'Aquino diceva che il più scarso degli angeli ha un'intelligenza infinitamente superiore al più intelligente uomo che sia mai esistito. Pensate a Lucifero, che era uno dei principi della milizia celeste prima di diventare Satana. Quindi ci avrà una bella capoccetta, che pensate? E se io, che sono un povero prete, quando vedo alcune situazioni e quando vedo alcune anime un po' un po' sciocche, che cominciano a mettersi nei guai. Non faccio fatica a dire questa, facendo così si troverà in mezzo a questo e questo e questo e questo e quel guaio, e regolarmente così succede, ma non perché sono un indovino, perché un pochino di esperienza, un pochino di cultura, un pochino di cose che uno ha letto, un pochino di santi che uno si è studiato e un pochino di pratica pastorale ti rende facilmente in grado di formulare delle previsioni, diciamo, non troppo specifiche, però diciamo così, puntuali. Certo, io non sarei mai in grado di dire tra 3 giorni alle 4:30 quella persona starà facendo questa cosa. Questo lo sa fare soltanto il Padre Eterno. Ma infatti i maghi e tutti gli altri, se qualcuno ha avuto modo, non ci andate, mi raccomando, di avere qualche esperienza, non ti danno mai, come dire, cognizioni future precise e puntuali. Perché non lo sanno fare, questo non lo sa neanche il demonio, non conosce il futuro. Però molte volte la gente rimane sconvolta perché ci azzeccano. Così come io so per certo, so per certo di alcuni presunti mistici e veggenti o personaggi carismatici, io lo so per certo ragazzi, che tu vai da loro, guardate che alcuni ce ne sono anche negli ambienti nostri, quindi bisogna stare molto attenti. Ah, tu vai da loro e questi ti cominciano a dire: ah, ma quella persona mi ha letto l'anima, sa tutto quello che penso, sa tutte quante le mie preghiere, eccetera, eccetera. Dico, aspetta, no, dice, quindi questo è un uomo di Dio, una donna di Dio. Ma chi l'ha detto questo qui? Ma tu pensi che il demonio non ti guarda mentre preghi? Tu pensi che il demonio non ti ascolta mentre parli? Voi pensate che è sordo? Quindi, cioè, chi ti ha detto che la fonte di quella conoscenza sia Dio? Speriamo. Ma questo non è elemento, cioè, se una persona fa solo questo, non è affatto detto che questa sia una cosa che venga da Dio. Potrebbe anche venire da un'altra parte. Capite? Ah, ma io sono andato da quel medium, mi ha messo in contatto, ho sentito la voce di mio figlio. Hai sentito la voce di tuo figlio? Ma va? Ma tu pensi che il demonio non conosce com'è la voce di tuo figlio? E voi pensate che il demonio non è capace di imitare perfettamente la stessa voce? Non avete mai letto, ragazzi, le vite dei santi, quando addirittura il demonio sfacciato e proprio, come dire, sprocedato come è, e appare sotto le sembianze della Madonna? È successo più di qualche volta, eh? Una volta è successo a San Filippo Neri, che gli buttò l'acqua santa addosso e la fece sparire perché era il demonio. Quindi, se il demonio sa prendere le sembianze della Madonna e sa parlare quindi con voce femminile, è successo, sta piena la storia della spiritualità di questa roba qui, eh? Ti pare che non sa prendere la voce di tuo figlio? Dice: ma guarda che ha esattamente detto le stesse cose che diceva mio figlio. Ma va? Perché pensi che il demonio era sordo quando tuo figlio era vivo o che non lo stava a sentire? Allora, questo come premessa, nel senso, ragazzi, mi raccomando, e ancora, mi raccomando, state molto attenti, perché alcune delle cose di cui oggi parleremo, purtroppo, molti ragazzotti le fanno. A volte in perfetta buona fede o per curiosità o perché ci è andato l'amico o perché ci è andato questo o perché ci è andato quell'altro. Quindi mi raccomando e mi raccomando, perdonatemi in insistenza. Allora, entriamo, adesso abbiamo fatto un'ulteriore introduzione in questo mondo. Quindi abbiamo detto che l'occulto è tutto ciò a cui per volontà dell'Altissimo, tutto ciò di cui per volontà dell'Altissimo all'uomo è negata la conoscenza. Quindi l'unico atteggiamento che l'uomo dovrebbe avere corretto è quello della fede e dell'umiltà, rinunciando a ogni forma di curiosità morbosa e malsana e accettando serenamente ciò che la fede dice su queste materie. Allora, il futuro lo conosce il Padre Eterno, sarà quello che Dio vorrà, mi fido di Lui, non ho bisogno di conoscere il futuro. Perché il futuro è nelle mani di Dio. L'unica cosa che devo fare è stare nella sua amicizia, in modo tale che non abbia a temere nulla di male. Questo è quello che ci dice la fede. Non serve conoscere il futuro. non serve. Se servisse, Dio ce l'avrebbe reso accessibile. Se non ce l'ha reso accessibile, vi ricordate il Vangelo di domenica scorsa, quando Gesù parla della fine del mondo? Dice: non lo conoscono neanche gli angeli del cielo, neppure il figlio. Espressione, spero che i vostri parroci ve l'abbiano spiegata, da interpretare, che altrimenti la si prende in modo eretico. Comunque, neanche il figlio, ma solo il padre. Cioè, chiaramente quell'espressione neanche il figlio è da intendere neanche il figlio in quanto uomo, perché Gesù in quanto Dio certo che lo conosce quel giorno. Dice, ma in quanto uomo, quindi considerando il figlio nella sua natura umana, Gesù sta dicendo, questa conoscenza Dio l'ha negata sia agli angeli che agli uomini, quindi non lo sa nessuno se non Dio. E non è alcuna volontà di Dio di dirla a nessuno. Quindi se volete essere sicuri che una persona viene per esempio dal diavolo, è uno che vi dica con precisione, non lo so, tra 10 anni ci sarà la fine del mondo. Questo non sarà mai detto da nessun uomo, in nessun caso, in nessuna forma, mai e per nessun motivo. Perché c'è chiaramente spiegato nel Vangelo che non è volere di Dio che questo velo sia tolto. Quindi non sarà tolto. Per quanto riguarda i morti noi sappiamo che sono affidati alla misericordia di Dio, dobbiamo fare attenzione a farli morire, siamo nel mese di novembre in pace, riconciliati con il Padre Eterno, e non stare sempre a pensare è meglio che non chiamo il prete, se no poi si impressiona, con tutte quante le stupidaggini assurde che vengono fatte oggi e dette anche da gente che dovrebbe insomma credere alcune cose, almeno un pochino di più, e non lo fa. Dopo la morte sono affidati alla Divina Misericordia. Quello che io devo fare, e che la Chiesa ci ricorda nel mese di novembre con una grande insistenza, è offrire i suffragi. Fagli dire un bel ciclo di messe gregoriane al tuo caro defunto. Fai un bel po' di rosari. Vai al cimitero e usi i sacramentali sulla tomba, l'acqua benedetta, il cero benedetto. Vai a messa più spesso e fai la comunione se stai in grazia di Dio e confessato in suffragio di quell'anima e basta. Ma se sta già in paradiso, ah, non fa niente, vanno per le anime del purgatorio. E se sta all'inferno, non fa niente lo stesso, vanno per le anime del purgatorio. Ci pensa la Madonna poi a chi dare i nostri suffragi quando sono inutili per i nostri defunti. Basta, non occorre sapere altro. Così come noi abbiamo per ottenere i nostri fini i mezzi ordinari e naturali. Vuoi diventare santo? Bene, comincia a praticare la preghiera, l'ascesi, prega di più e trovi un buon padre spirituale e basta. Ti è venuta una malattia? Benissimo, rivolgiti a un ottimo medico e cerca di curarti. È una malattia incurabile? Prega a Dio che ti faccia il miracolo, pregando come ti ha insegnato Gesù nel Padre nostro, però dicendo: Signore, se possibile, passi da me questo calice, però non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Se vuoi che io muoia prematuramente, eccomi. Fine. Quindi, capite, riguardo tutte queste realtà, la fede, purché sia ben formata, ci dà quanto ci basta e quanto ci straavanza per vivere serenamente il rapporto con queste dimensioni, come dire, borderline della vita terrena. Ci sono dei limiti, non li possiamo valicare perché è mondo che non ci appartiene. Allora, vi ricordate il Vangelo, la parabola del ricco Epulone? Vi ricordate cosa dice il Vangelo? Che tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti è posto un limite invalicabile. Non solo, è posto un limite invalicabile anche tra i regni dell'oltreterra, d'accordo? Quindi non ci si può spostare da un posto all'altro. Nell'Antico Testamento, se vi ricordate, a un certo punto, vi ricordate la storia di Saul e di Davide? Saul commette il gravissimo peccato reiterato e continuo, tra l'altro, dice la scrittura, provocato e suscitato da un demonio che prendeva possesso di lui, Praticamente comincia a invidiare Davide, Davide cerca di ucciderlo un sacco di volte e Davide lo perdona, non si vendica, rinuncia. Dopodiché a un certo punto era morto Samuele e lui vedeva che stava andando ormai in disgrazia, insomma, che stava decadendo, invece Davide era sempre più, come dire, sulla cresta dell'onda, diremmo noi oggi. E va da una maga, da una negromante, adesso vedremo questo peccato, a evocare lo spirito di Samuele. E questo è stato l'ultimo peccato che gli ha praticamente segnato la definitiva condanna a morte, d'accordo? Perché ce ne aveva fatti tanti. E in effetti Samuele è arrivato, ci dice il primo libro di Samuele, lo trovate al capitolo 28. Dice: ma che ti stai messo a fare adesso? Non ti basta che lo vuoi capire che Dio ti ha abbandonato? E che viene adesso ulteriormente a fare altri guai? Dio aveva detto non consultare i morti e tu ti vieni a fare anche questo adesso? Per ciò che riguarda il futuro, vi ricordate quando gli Atti degli Apostoli, Gesù ascende al cielo e gli chiedono: Signore, questo è il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? Cosa risponde Gesù? Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, ma avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e fino agli estremi confini della terra. Qui domande del tipo: adesso viene il regno di Dio? Non serve. Cosa serve? Gli dice Gesù. Serve che tu faccia bene il lavoro di apostolo. Tu sei stato chiamato a fare l'apostolo, benissimo. Fai bene quello che ti ho chiesto di fare. Cioè, quello che ci serve, ragazzi, parliamoci chiaramente, è fare la volontà di Dio e basta. Noi dobbiamo fare la volontà di Dio, punto e basta. Tutto il resto non serve a niente. Meno che mai queste forme strane di curiosità. Ok? Basta. D'accordo? Ora, quali sono le pratiche occulte, detto questo, con cui l'uomo, rivolgendosi, diciamo così, a presunti, tra virgolette, maghi, cerca di violare queste porte sigillate? Per entrare in qualche modo in contatto o avere una forma di conoscenza con queste realtà che sono, ripeto, per volontà di Dio, chiuse, occultate e sigillate ai nostri occhi. E dinanzi a cui, ripeto, l'unico atteggiamento che dovremmo avere è quella dell'umiltà e di accontentarci di ciò che la fede ci dice. E basta. E vedremo subito insieme, ragazzi e ragazze carissime, subito dopo aver detto insieme, vi invito ad unirmi, sono le 17. Sapete che perché ho questa cosa delle 17? L'ho imparata da poco, perché alle 17 è l'ora della Madonna della Medaglia Miracolosa, cioè durante le apparizioni importantissime che ebbe Santa Caterina Labourée, una tra le principali avvenne alle ore 17, per cui sembra che la Madonna gradisca molto, così lo imparate anche voi, rivolgersi a lei in questo orario con la preghiera dell'Ave Maria. Ecco, vi consiglio, se vi ricordate, di farlo quando potete, chiedendo anche qualche grazia alla Madonna, ricordando la Madonna della Medaglia Miracolosa, vi ricordate, con i raggi che uscivano dalle anime, dicendo che ci sono tante grazie che la Madonna vorrebbe fare all'umanità, ma che ne fa poche perché nessuno gliele chiede. Ecco. Quindi vi invito a formulare una breve intenzione e unirvi con me in questo piccolo intervallo di 20 secondi per recitare quest'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ora, torniamo a queste pratiche occulte. Allora, il primo grave peccato l'abbiamo già visto, è quello della negromanzia, il peccato che ha fatto Saul, di cui abbiamo già parlato. Quindi, negromanzia ovviamente è una parola che viene dal greco, necros significa morto, quindi la negromanzia non è altro che l'arte di interrogare i morti. Il negromante è colui che ritiene di poter entrare in contatto con le anime dei trapassati per per poterli interrogare. Esistono anche oggi questi negromanti. Adesso vedremo alcune forme di negromanzia. Quali sono le forme di negromanzia? La prima, state attenti, che questa è gravissima, è la seduta spiritica. Nelle sedute spiritiche si evocano i morti tramite dei sedicenti medium. Ora il problema, questo non lo dice Don Leonardo, parte il catechismo della Chiesa Cattolica, ma lo dice per esempio Padre Amort, durante le sedute spiritiche arrivano presenze o entità che parlano? Certamente sì, ma queste non sono le persone dei trapassati, questi sono i demoni. Io vi risparmio, ho la tentazione di raccontarla, però essendo una cosa molto forte per radio forse non è opportuno, specialmente se c'è qualche giovanotto. Io ci ho avuto con una mia amica un'esperienza drammatica, questa aveva partecipato a una seduta spiritica e ha raccontato a me personalmente quello che è successo, da fare accapponare la pelle. Sappiate che ci sono stati casi di possessione diabolica. Ripeto, possessione diabolica dipendenti dalla partecipazione a sedute spiritiche. Ok, ragazzi, spero di essermi spiegato bene. Questo significa che da questi posti bisogna stare alla larga. Se qualcuno di voi ha visto il film molto terrificante e diciamo un po' spettacoloso, però, come disse lo stesso padre Amort, come dire, Utile, che fu il famoso l'esorcista, credo che fosse uscito nel 1974 di William Friedkin, un film molto forte, molto violento, che narra appunto la storia della possessione diabolica di una bambina. Se fate attenzione per chi l'ha visto, quella bambina, prima di trovarsi inguaiata con il demonio, faceva il giochettino con Capitangaio, cioè con il cartellone dove Capitangaio muoveva il bicchierino dopo l'invocazione, la faceva da sola la seduta spiritica. Quindi, e questo è corretto, questo qui, cioè la tesi di quel film è che quella bambina si è ritrovata inguaiata col demonio perché faceva questo gioco, dove appariva una entità che si era autonominata Capitangaio. D'accordo? Ecco. Quindi, siccome io so che molti ragazzini e ragazzotti per scherzo si mettono a fare queste cose, cioè fanno la catena, si mettono con le mani aperte e mettono anche il cartellone e cominciano a far muovere il bicchierino, che si muove il bicchierino, non è che non si muove, come? E lo prendono come un gioco, come uno sballo adolescenziale o giovanile, state attenti, state. Qui entriamo in tutte le cose che vi sto dicendo oggi, in terreno minato. Li conoscete i campi minati, no? Se uno entra in un campo minato, cioè può darsi che la faccia franca, ma entrare in un campo minato è impossibile farla franca se uno non c'ha tutta la mappa di dove stanno le mine, perché può fare un passo, può fare due passi, può fare tre passi, quattro passi, cinque passi, ma al sesto passo salta per aria. Quindi quando si entra in questi mondi qui, si entra a casa di Satana. Mi sto spiegando bene, peccato che non ho gli interlocutori che possono rispondere. Quindi alla larga da questa roba qui, eh? Quindi le sedute spiritiche, la prima cosa. La seconda cosa è la scrittura automatica. Allora, c'è un medium che inizia a pregare, tu gli dici: guardi, caro medium, voglio entrare in contatto con l'anima di mio nonno, eccetera, eccetera. Questo comincia a pregare, si mette le mani sulla testa, a un certo punto entra in trance, prende una penna e comincia a scrivere velocissimamente, in maniera automatica, cioè non è lui che scrive, c'è cioè la mano che è mossa e scrive alcune cose. Se tu le vai a leggere, sono pensieri, espressioni, forme verbali tipiche della persona che era morta. Allora chi deve dire: hai visto, sono entrato in contatto con il mio morto? No, Si è entrato in contatto con il demonio che ha simulato esattamente le cose che pensava e che diceva il tuo morto, ma non con lui. D'accordo? La terza forma di necromanzia è la registrazione automatica. Questa è la più sconvolgente da un punto di vista sensibile, cioè sempre lo stesso medium. Quindi attraverso di lui lo spirito evocato parla con la stessa voce della persona defunta, oppure se ne registra direttamente la voce sul registratore. Audite, audite. Guardate che io ho conosciuto qualcuno e queste cose le ha fatte e le fa. E quando gli ho detto, dico, ma che sei matto? Sta attento, questa è una cosa grave contro il primo comandamento. No, che cosa grande il primo comandamento? Ma io, quello è mio figlio, io ho perso mio figlio, oh, ma ti rendi conto che grazia che è aver potuto risentire la voce di mio figlio? Zitto figlio mio, zitta figlia mia, lascia perdere, quello non è tuo figlio, ma che stai a dire? Poi lo so io che fine hanno fatto queste persone. State attenti, ragazzi. State attenti, perché niente come in queste cose mostra la faccia del diavolo come il re degli ingannatori. Quindi simula delle cose apparentemente strabilianti e buone, ma il fine qual è? Il fine è farti fare un peccato gravissimo contro il primo comandamento e acquisire potere sulla tua anima. Basta. Non gli interessa nient'altro. E se per fare questo ti può illudere di cose positive, tenendo presente che poi lui si sbudella dal ridere alle tue spalle, ben venga, non c'è nessun problema. Quindi, vi ripeto, queste cose qui, a parte che le trovate nel Catechismo della Chiesa Cattolica, ma i dettagli, cioè nel senso che oltre ad essere peccati che non si devono fare, il fatto che, come dire, ricorrendo a queste pratiche non si parla con i morti ma con i demoni, lo dicono gli esorcisti. Io vi ho detto tante volte, conosco bene questa materia per studio mio personale, non sono esorcista, non sono stato nominato esorcista, non faccio l'esorcista in senso stretto, d'accordo? Tuttavia, come prete, ho avuto modo di conoscere situazioni che poi io ho accompagnato dall'esorcista, e che erano coinvolte in queste situazioni. Quindi, oltre alle cose che mi vengono dalla cultura personale che ho acquisito, perché ritengo che un prete debba avere una certa, perdonatemi l'espressione, professionalità, cioè debba essere competente nelle cose tipiche di un prete, quindi nelle cose spirituali e in queste cose, ho avuto poi anche modo, ovviamente di sponda, e quindi assistendo, di verificarle de visu, personalmente. Quindi non vi parlo, come dire, per chiacchiere oppure per cose devo, per idee mie strane. Riferisco ciò che ho studiato, udito e visto con i miei occhi. Allora, chi fa queste cose, oltre al fatto che entra in contatto con il mondo dell'occulto, trattandosi queste di forme di culto indiretto a Satana, si espone al rischio di contrarre mali di origini malefiche, non esclusa la possessione diabolica. Cioè, c'è molta gente che dice: come fa il diavolo a impossessarsi di una persona? Ma ve lo siete mai chiesto voi? Com'è possibile che Dio permetta una cosa di questo genere? La possessione diabolica, eh? Chi lo sa se un giorno approfondiremo queste tematiche. Allora ve lo dico io come fa. Allora, perché il diavolo possa prendere possesso di una persona, ci vogliono solo due requisiti. Due. Primo, che la persona non stia in grazia di Dio. Ci sono stati, si contano sulla punta delle dita, casi nel corso della storia della Chiesa, uno è molto famoso, di santi a cui Dio ha scusate, che Dio ha permesso che subissero una possessione diabolica come forma di penitenza da offrirgli, ma si contano sulla punta delle dita. D'accordo? Perché la possessione diabolica normalmente ha un'origine colpevole, nel senso che il diavolo non può fare questa cosa se tu stai in grazia di Dio, perché Gesù Cristo al diavolo l'ha vinto, quindi lui non può entrare in un corpo dove abita la divina grazia, non può. Ma non basta, perché non è che tutte le persone che fanno un peccato mortale diventano indemoniate, ci vuole oltre a questo o un atto di culto, diretto o indiretto, che la persona rende al demonio, e questi sono atti di culto indiretti resi ai demoni. Oppure che qualche persona che ti vuole male, e ora lo vedremo, ti faccia un maleficio, cioè non è che ti fa le cose tipo Napoli, le corna, il malocchio, queste stupidaggini qua. Ci sono delle persone che, adesso lo vedremo, che sono capaci di evocare gli spiriti cattivi e di scatenarteli contro. Cioè, capite? Allo stesso modo di come io che sono prete, ogni giorno prendo il breviario e invoco sui miei fedeli le grazie, questi usano le loro liturgie, le loro preghiere, le loro bestialità per invocare i demoni per nuocere al prossimo. È così, ragazzi. Ok? Quindi, quando Dio vuole dare delle comunicazioni, ci pensa lui a farlo. Vi ho citato i casi di Maria Simma, di Natuzza Evol, ci sono casi di due grandi sante, per esempio Santa Faustina Kowalska oppure Santa Teresa d'Avila che videro l'inferno. Ma queste circostanze sono state volute da Dio. Dio ha preso queste persone e gli ha dato questi doni al fine di edificare. È lui che decide se, quando e a chi darli. D'accordo? Questo per quanto riguarda la negromanzia. Ecco. Poi c'è la chiromanzia, sempre dal greco, che è il kairos, cioè è la lettura della mano. Cioè, alcuni operatori dell'occulto, attraverso la lettura della mano, prevedono il futuro o leggono il futuro. È altra operazione diabolica, quindi se qualcuno di voi è andato a farsi leggere la mano, si deve confessare, così come se avete fatto le sedute spiritiche, e così come se, non lo so, con la nonna o con la zia o con la mamma, siete andati da qualche mattacchione a fare la registrazione automatica o la scrittura automatica. Simile alla chiromanzia è la cartomanzia. I cartomanti sono quelli che leggono le carte. Lo stesso. Si tratta sempre in questo caso non di entrare in contatto con i morti, vedete prima il bucare i confini di questo mondo, questa volta si tratta di violare le regole del futuro. Si va dal cartomante a farsi predire il futuro. Carte e tarocchi. Anche questo peccato mortale gravissimo e sono tutte forme di occultismo, sono tutte forme di culto indiretto reso a Satana. Culto indiretto perché poi vedremo l'ultimo è il satanismo con tutti quanti i riti. Oh, lo stesso, poi c'è il peccato grave di magia. Consultare un sedicente mago al fine di conoscere il futuro oppure al fine, come vi dicevo, di fare del male a qualcuno, rovinargli il lavoro, rubargli il marito. Le fatture a morti, io non ci credevo a queste cose, ragazzi. Vi confesso candidamente una delle mie innumerevoli colpe. Ci ho creduto solo dopo aver letto i libri di Padre Amort. Mi ricordo, ero giovane quando lessi L'esorcista racconta questo, cominciava a dire il maleficio, il malocchio, le cose. Dice: ma che siamo matti? Ma che siamo tornati nel Medioevo, la superstizione napoletana? Io. Allora, ragazzi, io ce l'ho portato io da Padre Amort un caso. Terribile, di possessione diabolica di primo grado. Una persona legata a un lettino con sei uomini a reggerla e che poi durante gli esorcismi confessa candidamente lì che quello si trovava così perché c'era stato il malocchio operato sulla madre mentre lui stava nel grembo materno. Pensate. Cioè, sono delle cose veramente. Noi oggi siamo tutti intelligenti, siamo tutti scienziati, tutti quanti razionalisti. Però queste cose ci stanno, ragazzi. Allora, Allora, attenti un'altra cosa. Tu dici, no, ma io vado dal mago, ma il mago c'ha nel suo studio l'immagine di Padre Pio, l'immagine della Madonna, addirittura c'ha pure la corona del rosario. E lui dice che non usa i suoi poteri per fare del male, ma solo per fare del bene. Allora, qui per esempio, ci stanno per esempio, adesso vanno molto di moda, i pranoterapeuti. D'accordo, sarebbero quelli che operano la cosiddetta magia bianca, quindi non la magia nera, quindi il ricorso al mondo dell'occulto al fine di fare il male, ma la magia bianca, cioè il ricorso al mondo dell'occulto al fine di fare il bene. Io vi dico, ragazzi, è sempre Satana, è sempre Satana, è sempre Satana. E Padre Amort dice: anche se in questi casi tu vai dal pranoterapista e c'è quel dolore alle ossa, ti passa. Non ci andate, ma ti passa. Allora uno dice: hai visto? Mi è passato il dolore alle ossa. Possibile che il demonio che è così cattivo ti fa passare il dolore alle ossa? Quindi questo è un sant'uomo che viene da Dio, giusto? Giusto, no, ragazzi? Corretto? Ecco, e qui però casca l'asino. Perché casca l'asino? Perché a volte Satanasso, ma questo lo fa molto molto spesso, cosa fa? Ti dà qualche immediato beneficio, perché tu intanto ti metti dalla parte sua, salvo poi colpirti in un secondo momento. Ma scusate, non è così anche quando noi, quando ci induce a fare qualche peccato? Non ci avete mai pensato? Perché uno commette un atto impuro? Commette un atto impuro perché gli va di provare un piacere forte, pieno di ebbrezza, violento e eccitante, immediato. Non è mica una tortura provare, capite? Cioè, commettere un atto impuro, ragazzi, scusate, non è che uno viene torturato, quindi che è una cosa, oddio, quanto è brutto commettere un atto impuro. È brutto perché è in viso a Dio, perché è un piacere indegno dell'uomo e che lo è ancora di più quando è appunto, come dire, vissuto e provato in maniera disordinato. Ma il fatto in se stesso non è un fatto truce, dice, oddio, che brutta esperienza aver fatto un atto impuro. Da un punto di vista sensibile non lo è, se no non lo farebbe nessuno, no? Quale uomo volontà, quanti sono gli uomini che fanno i digiuni? Sono molto meno di quelli che fanno gli atti impuri. Perché fare digiuno certamente è un atto santo, ma non è atto gradevole. Allora, il fatto che da questi soggetti venga un beneficio immediato, dici, ah, allora quindi questa è una cosa buona. Ma quando mai? In ogni peccato c'è un effetto. Ma anche, guardate, anche nei peccati più brutti, questo lo dice San Tommaso, non lo dice Don Leonardo, cioè, perché altrimenti nessuno peccherebbe, cioè se il peccato, come dire, fosse una sorta di male assoluto, quindi fosse totalmente cattivo, non ci avesse neanche un aspetto accidentalmente, dice San Tommaso, positivo, nessuno peccherebbe. Anche, cioè, se io ammazzo il mio nemico, cioè, c'è comunque un aspetto negativo che mi levo di torno, cercate di capire bene quello che sto dicendo, ragazzi. Mi levo di torno una persona che mi affligge, che mi dà la morte, che mi ha rubato la moglie, non lo so che cosa ha fatto, no? Non è che l'ammazzo, cioè, per il gusto sadico di ammazzarlo, può succedere, ma questo è un pervertito, è uno che assomiglia molto al demonio, è il demonio che è sadico allo stato puro. Ma normalmente l'uomo, anche quando fa questi atti aberranti, ha sempre di mira qualche effetto positivo. Quindi il fatto che da questo ne venga un effetto positivo non fa. Ma sapete quanti pseudomistici ci sono anche da queste parti? Ma delle situazioni pazzesche. Ah, ma Don Leonardo, tu sei così rigido, ma perché non vuoi che andiamo da questo pseudo-santone o da quella pseudo-santona? Ma stiamo tanto bene, ma quello dice il rosario, poi ci impone le mani, ci dà la benedizione. Attenzione, tu stai in posizione delle mani a destra e a sinistra. Non mi fate parlare, io so anche di. A volte i cosiddetti, quando sento dire il prete carismatico, io tremo, ragazzi, d'accordo? Non dite mai in giro a nessuno, perché io considero una gravissima offesa, che Don Leonardo è un prete carismatico. Io non sono un prete carismatico, assolutamente, non lo sono, non lo voglio essere. Ecco, un prete normale che fa semplicemente. fa, cerca di fare il suo lavoro e basta. Ok? Allora, ci sono anche alcune forme adesso di sport o di pratiche, per esempio lo yoga, è Satana lo yoga, anche il Reiki, non si fanno quelle cose lì. Sapeste quanta gente ho conosciuto che va a fare sti corsi qua, specialmente... Mi fate parlare, non posso parlare. Lo yoga e Reiki è roba che viene dal demonio. Oppure altre cose, cioè, c'è sta mia nonna che ha detto che mi deve fare una preghiera e mi deve mettere un po' d'olio in testa per togliere il malocchio. Non fate fare niente di questa roba qui. D'accordo? E non bisogna andare neanche dal mago, io vado dal mago che mi toglie la fattura. Allora... Vengono a fare le battute, ma le fatture ce le dovremmo far togliere tutte oggi che paghiamo troppe tasse, d'accordo? Quindi, allora, se tu c'hai una fattura vera, il mago non ti fa niente, perché una fattura vera, andata a effetto, produce dei mali malefici, c'ho l'esorcista per togliertela, non il mago. Padre Amor dice nei suoi libri che molta gente che si rivolgeva, e credo che si rivolga perché lui eroicamente, nonostante la venerabile età, ancora continua a fare gli esorcismi, ha 87 anni, Padre Amor, del 25, e dice molta gente viene da me che sta già rovinata, perché prima di venire da me è andata per 200 maghi a farsi togliere il malocchio, o a farsi togliere la fattura, e figuriamoci, quindi se stava già messa male, arriva da me che sta messa peggio. E dire peggio è un eufemismo, cioè sta messa malissimo, disastro totale. Capito ragazzi? Quindi attenzione. E tenete presente che non esiste distinzione tra magia bianca e magia nera. Ecco. Io una cosa per esempio che ho saputo e devo anche correggere un intervento fatto dalla radio e chiedo scusa, un annetto circa e mezzo fa su Halloween. Per esempio, scoppiò una polemica proprio innescata da Padre Amort contro Harry Potter, quando uscirono i film di Harry Potter. Io nella mia solita ignoranza, perché così capite che chi vi sta davanti, altro che qualcuno si pensa, preti carismatici, non è nessuno, io sinceramente nella mia stupidità, la confesso, dico, vabbè, ma Harry Potter... Vabbè, sì, ci stanno le streghe col cappello a punta, ma si vede che è una favola, insomma. Non mi sembra che sia chissà che o chissà che cosa. E invece non è così. Perché ho avuto poi, purtroppo, tristi conferme, e non vi posso dire quali, ma ce l'ho avute, che è proprio come diceva Padre Amort. Cioè che la saga di Harry Potter non è film raccomandabile. Per quanto possa sembrare strano, quindi attenzione ragazzi su questo mondo qui, perché oggi è molto diffuso questo. Io a volte passo per uno che sta sempre a parlare del demonio e credulone. Io vi dico che io personalmente vi prego di credermi, sono sommamente restio a credere a tutte queste cose. Tant'è vero che se vi fate mandare la registrazione dalle suore della puntata del 1° novembre dell'anno scorso, io ho detto, l'ho detto in forma dubitativa, dico sì, si dice anche Harry Potter, ma insomma non mi sembra che vedere questo film sia tutta sta tragedia. Ho detto una cosa del genere, la rettifico perché non è vero, mi sono dovuto ricredere. E tanto è vero che poi nel video che ho fatto, che l'ho messo in giro su YouTube, ho tagliato quella parte in modo tale da non andare a indurre in errore le persone. Ho semplicemente tagliato in modo tale che non si parla. Quindi questo è un mondo, come dire, è un mondo minato, come vi ho detto. Ecco, l'ultimo, l'ho lasciato per ultimo, è quello del satanismo. Cioè, il satanismo è l'atto esplicito di culto al demonio, o in odio a Dio, oppure, vedete anche qui che c'è il beneficio immediato, per ricevere dal demonio beni, ricchezze e piaceri della vita, o potere o successo. Cioè, i tre idoli, ecco i peccati di idolatria, non avrai altro Dio al di fuori di me, sesso, soldi e successo. Le tre S le chiama il nostro vescovo. Se tu ti metti dalla parte del demonio, vuoi fare sesso? Quanto ne vuoi? Vuoi soldi? Quanti ne vuoi? Vuoi il successo? Vuoi emergere? Vuoi il potere? Quanto ti pare? Non dobbiamo stupirci di questo. La terza tentazione che subisce Gesù nel deserto qual è? Gli fece vedere tutti i regni della terra, dice: vedi tutta questa roba e tutta la gloria è stata posta nelle mie mani e io la do a chi voglio, basta che tu prostrandoti mi adorerai. Perché i satanisti si mettono a fare i satanisti facendo, non vi dico, io li conosco i riti che fanno, stavo a pensare che ve li dico per radio, perché fanno quelle bestialità, quelle cose orribili? Per questo? Certo, insieme a sesso, soldi e successi poi ti vengono tanti guai, perché poi il demonio ti presenta il conto, anche in questa vita, per non parlare quello che ti presenta al di fuori di questa vita. Ma intanto quelle cose te le dà. Capite? Ora, la forma più grave di satanismo è la consacrazione a Satana, normalmente con un patto scritto con il proprio sangue. Attenzione, ragazzi, qui bisogna aprire il capitolo tatuaggi, eh? State attenti che i tatuaggi non sono di per sé stessa cosa buona. Ci sono dei tatuaggi che sono neutri, ma il tatuarsi è pratica che richiama fortemente. Nella modalità, vedete oggi quanti schifo di tatuaggi che stanno in giro, cioè sembra, non può essere un caso, cioè nella consacrazione a Satana c'è un patto di sangue, cioè ci sono delle incisioni fatte col coltello sulla carne, perché Satana vuole il sangue per sigillare i patti con noi, non è uno scherzo. Quindi lasciamo perdere tatuaggi, tutta questa roba qua. È vero che se uno c'è un tatuaggio normale, tranquillo, potrebbe non essere, anche qui usiamo un'espressione che dopo dovessi venire a sapere che ogni tatuaggio, ecco quindi, ma non è roba buona di per sé stessa. E poi c'è la partecipazione agli atti di culto, oltre che alla consacrazione, rivolti a Satana, di cui il principale è la messa nera, oppure l'affiliazione a una setta satanica. Oppure, riprendiamo e concludiamo, la partecipazione a Halloween. Halloween è un'osanna a Satana. E anche qui, questo l'ho già detto nella catechesi mi sembrava fatta bene, adesso a prescindere da Harry Potter, però il fatto semplicemente di partecipare non fa niente. Guardate le lotte che ho dovuto fare contro le persone cretine, perdonatemi il termine, tanto io lo uso come sinonimo di abitante di Creta, dell'isola di Creta. A dire: ma poverino il mio povero figlioletto, ma che gli fa? Va in giro mascherato col cappellino a punta a fare dolcetto e scherzetto, ma che vogliamo farne una tragedia, ma che vuoi che sia? Voi sapeste quanti stupidi, anche nella scrittura dice lo stupido dice Dio non esiste, quindi stupido si può dire, stupido vuol dire senza cervello, che vanno appresso a queste cose. Così anche il bambino innocentissimo che va col cappello a punta a fare dolcetto e scherzetto entra, come dire, nel rituale satanico, perché il 31 ottobre è il capodanno di Satana, è il primo dei sabba satanici, ed è la notte più magica dell'anno. Questo si trovano scritte nel libro nero del satanismo, nel capitolo dedicato al calendario satanico. Quindi chiunque entra in quel mondo si mette, apre una porta ai demoni. Fallo fare a tuo figlio, tanto poverino, che male c'è? Dolcetto e scherzetto, che problema c'è? Poi se da grande si ritroverà con i problemi grossi e sapeste quanto sono diffusi, non andiamo a piangere, perché il Padre Eterno, cara mamma sciocca e caro papà abitante di Creta, ne chiederà conto a te. Quindi mi raccomando, adesso dobbiamo concludere che è scaduto il tempo, lontano da tutti i peccati detti oggi, da tutte le forme di occultismo, che sono gravissimi peccati contro il primo comandamento e vere e proprie aperture di porte al mondo di Satana. State attenti che una volta che il demonio entra, a entrare è relativamente facile, a uscire può essere molto difficile. Ci possono volere anche anni di esorcismi, però prima di risolvere un caso di possessione diabolica. Quindi attenzione, se lo conosci lo eviti. Uomini e donne avvisati, mezzi salvati. Con questo vi saluto. Ci vediamo se vorrete la settimana prossima. A tutti, Ave Maria. Solo a novembre Dacia Duster Turbo GPL tuo da 6 euro al giorno, ovvero da 180 euro al mese. TAN 525, TAG 701, salvo approvazione Dacia Fin. Con vendita privata Dacia, la tua concessionaria è online. Approfitta delle nostre offerte esclusive, puoi avere anche la consegna a domicilio, info e condizioni presso la rete aderente.